È un po' il solito dibattito a cui siamo stati abituati negli ultimi 10 anni, ovvero c'è un gigantesco problema che riguarda le pensioni, soprattutto delle generazioni che si affacciano al mercato del lavoro o che ci stanno da una decina d'anni, che sono legate al fatto che purtroppo si tratta di persone che vivono con retribuzioni basse, con condizioni di lavoro precarie, quindi caratterizzate da discontinuità di reddito, e che avranno pensioni da fame. Davanti a questa realtà oggettiva, la politica, il governo, in questo caso ovviamente accompagnato da Elsa Fornero e da tutti quelli, insomma, che sostengono questo piano di intervento, pensano invece che sia necessario continuare a allungare l'età pensionabile, quindi tornare sostanzialmente a una situazione precedente a quella di quota 100, quindi alzare l'età pensionabile dei nostri genitori sostanzialmente per pagare le pensioni dei figli. Quindi si agita lo scontro generazionale per non guardare invece la realtà, cioè il fatto che il problema del sistema pensionistico italiano è legato al fatto che le generazioni, diciamo, nate negli anni 70 fino agli anni 90 hanno contratti precari, salari bassi, quindi hanno una bassa contribuzione legata alla precarietà, e questo è il problema che dovrebbe essere affrontato. Quindi è un problema della condizione materiale del mondo del lavoro e non c'entra nulla lo scontro generazionale. Le pensioni dovrebbero, come dire, essere qualcosa che lo stesso lavoratore si ripaga, ma sappiamo che in realtà sono i lavoratori di oggi che li pagano i pensionati di oggi e così via. Quindi, insomma, il problema della sostenibilità delle pensioni va ricercato anche nella precarietà, nella discontinuità, nei salari da fame, giusto per citare un vostro libro, di chi oggi è attivo sul mercato del lavoro. Esattamente, perché con il sistema contributivo, che oggi è il sistema su cui si fonda appunto il sistema pensionistico italiano, l'ammontare delle pensioni dipende dai contributi che noi versiamo. Ma se abbiamo lavori saltuari, discontinui e bassi salari, sono pochi i contributi che versiamo. È questo che è il vero problema del sistema pensionistico italiano, della sua sostenibilità, cioè il fatto che hai una quota sempre più ampia, sono 5 milioni i lavoratori poveri in questo paese, che matura pochi contributi e quindi non riesce, il sistema pensionistico non si sostiene con una precarietà dilagante e con una povertà lavorativa. Il tema fondamentale resta la questione salariale e la questione occupazionale. Se non si affronta questo, cioè se non si allarga la torta di coloro che versano i contributi e la qualità del loro lavoro, il sistema pensionistico italiano sarà continuamente in difficoltà, perché c'è poca gente che contribuisce, e questo deriva dal fatto che abbiamo appunto precarietà dilagante, salari bassi, eccetera. Quindi è una questione, come dire, di classe, non c'entra nulla lo scontro generazionale. Lo scontro generazionale viene agitato esclusivamente per nascondere, mistificare la questione oggettiva, che è questa, cioè il fatto che precarietà, bassi salari riducono il montante contributivo e quindi rendono il sistema pensionistico in difficoltà. E se il problema è questo, a tuo avviso, perché nessuno sullo scenario politico lo affronta? Perché lo scenario politico e la compagine che sostiene Draghi non ha alcun interesse di rispondere e di rappresentare il mondo del lavoro. Hanno scelto come unico soggetto della rappresentanza il mondo delle imprese, il mondo produttivo. Il mondo del lavoro non ha una rappresentanza politica all'interno del nostro Parlamento, o se ce l'ha è davvero piccola, esigua. Quindi il tema fondamentale è che noi abbiamo una maggioranza di governo che sostiene e rappresenta determinati interessi, e quelli del mondo del lavoro non sono degnamente rappresentati, anzi non sono assolutamente rappresentati in Parlamento. Mettici pure che abbiamo un sistema dell'informazione mainstream che non fa altro che legittimare questo fantomatico scontro generazionale e continuare a, come dire, a nascondere le questioni di fondo che riguardano le condizioni oggettive del mondo del lavoro. Quindi siamo in una situazione non nuova, perché appunto è una situazione che ormai ci portiamo dietro da più di 10 anni, in cui sistema dell'informazione, dei media e governo e Parlamento guardano esclusivamente un pezzo della società italiana, e l'altra metà, cioè il mondo del lavoro, non ha, diciamo, una sua rappresentanza politica.